ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti, e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo, non si vede più. A chi non ha uno specchio, e comunque non per questo, non ce la fa più. A chi ha lavorato, a chi è stato troppo solo e va sempre più giù. Benvenuti a Dedicato, 6 marzo! Oh, siamo arrivati al mese di marzo, ragazzi, la primavera, si inizia a vedere del colore, poi tornerà grigio, poi tornerà il colore, poi finalmente, alla fine di questo mese, saremo in primavera, evviva! Noi di Dedicato siamo molto gioiosi quando arriva la primavera, ma poi in realtà ci piacciono tutte le stagioni, ma arriviamo all'argomento della nostra puntata. Questa è la settimana dell'8 marzo. L'8 marzo è una giornata per noi importante perché si festeggia la donna e in tutte le sue forme, e in tutte le sue contraddizioni e in tutte le sue meraviglie. Quindi noi andiamo in onda mercoledì 6 e non venerdì 8, ma festeggiamo comunque la donna, le nostre donne, tutte le donne. Quindi niente, io direi di cominciare. Intanto oggi, sappiatelo, ci saranno sicuramente delle incursioni, ma di donne. Anche se ci saranno degli uomini, noi parleremo di donne, va bene, oggi, quindi vediamo di mantenere una certa calma in studio, lo sto dicendo qui a chi è qui con me, ma mi interessa moltissimo invece sentire le donne, quindi far parlare loro e dare voce alle fanciulle che circondano il nostro studio e la nostra quotidianità. Anche se devo fare una precisazione, perché ci tengo molto a dirvi che gli uomini del nostro studio, ma non solo, no? Della nostra quotidianità per l'appunto, sono uomini un po' diversi, sono uomini che si sanno contraddistinguere per spiccate qualità, e quindi mi fa piacere dire questa cosa, perché noi festeggiamo le donne per tanti buoni e ottimi motivi che poi vi racconteremo, ma anche gli uomini fanno parte del nostro essere e quindi tutti quegli uomini che sostengono le donne, che quotidianamente vivono con loro le problematiche e provano a risolverle insieme, quelli che portano avanti i diritti delle donne da anni insieme a noi, ecco, quelli sono quegli uomini speciali che a noi piace avere di fianco e che fortunatamente abbiamo di fianco. Che brutta fatica cadere qualche metro in là dalla mia sventura, dalla mia paura. È un volo a planare per essere ricordati qui, per non saper volare. Ma come ricordarlo ora? Non sono una signora, una con tutte stelle nella vita. Non sono una signora, ma una per cui la guerra non è mai finita. Non sono una signora, una con pochi stelle nella vita. Oh no. Loredana Bertè, non sono una signora. Beh, come non coinvolgere Loredana nella nostra puntata sulle donne? Era praticamente impossibile. Quindi, bene, grazie Loredana, grazie di essere una di noi, come sempre. Quindi, torniamo un attimo alla festa dell'8 marzo. Allora, l'8 marzo, va bene, tutti si chiedono perché la mimosa, per esempio, no? La mascotte me l'ha chiesto poco tempo fa, mi ha detto, ma perché la mimosa? Cioè, perché non una rosa? Perché non un gelsomino? No, la mimosa. Perché? Allora, la mimosa fu scelta perché era uno dei primi fiori a sbocciare all'inizio di marzo e aveva il vantaggio di essere poco costosa. Come disse Teresa Mattei, sentite che bella cosa, scegliamo un fiore povero, facile da trovare nelle campagne e che è anche il fiore che i partigiani regalavano alle staffette. Quindi, più di così io non avrei da aggiungere, se non che secondo gli indiani d'America il fiore della mimosa significava forza e femminilità. Quindi, aggiungendo questo al discorso dei partigiani che lo regalavano alle staffette, direi che proprio è il fiore perfetto per festeggiare la donna l'8 marzo. No ragazzi, ragazzi, oggi no, oggi veramente la molliamo qua con la musica dal vivo, le prove, e i concertini e tutto quello che vogliamo fare, ne riparliamo la settimana prossima. Stavolta stiamo parlando della festa delle donne, dell'8 marzo, quindi piuttosto, ecco, ditemi, perché? Perché l'8 marzo? Perché oggi ancora festeggiamo l'8 marzo del 2024? Perché ne troviamo il bisogno? Perché lo vogliamo fare? Perché lo dobbiamo fare, no? Perché? Festa della donna nasce per fatti assai macabri. Si parla di operaie bruciate vive in un incendio in una fabbrica che era stata chiusa, così non potevano uscire mentre lavoravano. Questo ci dovrebbe dare dei punti di riflessione sulle discrepanze sociali che tutt'oggi ci sono. Questo giorno in particolare dovrebbe aiutarci a far forza alle nostre morose, compagne, amiche, mamme, nonne, tutti, tutte, perché c'è ancora molto da lavorare. Al giorno d'oggi mi sento di dire che la società non abbia ancora imparato la lezione. Ci sono troppe discrepanze, troppe ingiustizie, quindi fatele sentire bene, non perdiamoci in frufru. Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. In questo nido scaldato già dal sole paziente. Ma tu che smetti alle tre, poi torni a casa da me. Tu che non senti più niente, mi avveleni la mente. Un filo azzurro di luce scappa dalle serrate. Cerco invano qualcosa. che io non ho bisogno di te. Io non ho bisogno di te, perché io non ho bisogno delle tue mani, mi basto sola. E ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente, in questo nido scaldato ormai da un sole paziente, che brucia dentro di me, che è forte come il caffè. Un pomeriggio così, bisogno di te, perché io non ho bisogno di te. Io non ho bisogno di te, perché io non ho bisogno. Fiorella Mannoia, caffè nero bollente. Beh, come non coinvolgere anche Fiorella in questa puntata sulle donne? Importantissima donna della musica italiana, Fiorella, oltretutto legata anche a percorsi social-politici molto interessanti e vicinissima a noi. Ecco, quindi grazie anche Fiorella e grazie per questo brano che ci fa sempre ballare e cantare. Detto questo, 8 marzo, allora innanzitutto ci sono un sacco di eventi programmati in tutta l'Emilia Romagna, quindi la regione si muove in direzione 8 marzo e quindi da spettacoli teatrali, laboratori, concerti, momenti di condivisione, quindi direi che più di così, chi più ne ha più ne metta, io adesso non mi metto a fare il calendario eventi di quello che succede l'8 di marzo, perché il web è pieno, quindi impegneremo 2 o 3 puntate solo per elencarvi tutto quello che avviene in regione, ma vi posso dire che le donne entreranno gratis in tutti i musei nella giornata dell'8 marzo, questo sì è una cosa molto carina e interessante, quindi chiunque voglia andare a vedere mostre o insomma momenti che non si è mai concesso perché non ho tempo, non ho voglia, non è il momento, ecco, il momento è l'8 marzo, i musei aperti a tutte le donne. Bene, ora diamo voce a Giulia, amica e compagna di una vita con cui ho condiviso veramente molti momenti sulla lotta per le donne e contro la differenza di genere, quindi ci tengo moltissimo a farvi ascoltare il suo punto di vista e un suo pensiero, insomma, su questo 8 marzo. Perché abbiamo la responsabilità di visibilizzare ancora nel 2024 questa data, l'8 marzo? Innanzitutto l'articolo 3 della nostra Costituzione antifascista sancisce la parità tra l'uomo e la donna, ma basta vedere qualsiasi statistica anche a livello mondiale come l'ultimo Gender Gap Report del 2023 per vedere che questa parità è molto lontana. Infatti la posizione del nostro paese è passata dal 63° posto nel 2022 al 79° posto nel 2023 su un totale di 146 paesi. Sicuramente a pesare maggiormente sul risultato è quella che è la partecipazione e la rappresentanza delle donne in politica, ma mi viene da dire anche a livello delle professioni più, diciamo, in vista, sono pochissime le donne rettrici, sono pochissime le donne che accedono ai posti, alle cariche più alte. Un leggero miglioramento, va detto, che riguarda quella che è la partecipazione alle opportunità economiche, mentre invariata è la posizione nell'accesso all'istruzione. Anche qui siamo al 60° posto su 146 paesi. Sicuramente una lente con cui leggere questa distanza che c'è ancora tra uomini e donne oggi è l'intersezionalità della discriminazione che è subita da una donna. Cioè, cosa vuol dire questa cosa? Che sicuramente più che gli uomini, le donne subiscono discriminazioni che sono connesse a quello che è il loro genere. Pensiamo anche alle donne transessuali, quante discriminazioni subiscono sia nello spazio privato che in quello pubblico, alla loro provenienza sociale geografica, alla loro religione, all'età, ma anche alle scelte di vita. Pensiamo a quante volte una donna è considerata una mamma. Perché dobbiamo lottare tutto l'anno e non solo l'8 marzo? Perché, visto che le discriminazioni sono intersezionali, dobbiamo veramente ancora di più organizzarci affinché le lotte siano anch'esse intersezionali, trasversali tra le classi sociali, tra le appartenenze geografiche, religiose, all'età anagrafica, e quindi ricordiamoci di lottare sempre. Gianna Nannini con Meravigliosa Creatura ci ha veramente accompagnato in questo percorso con le donne sulle donne, quindi grazie Gianna, pezzo meraviglioso. E passiamo ora invece allo sciopero dell'8 marzo, sciopero di non una di meno, è lo sciopero transfemminista. Vi leggo alcuni punti salienti tratti dal sito web nonunadimeno.wordpress.com. Si avvicina la data dell'8 marzo e per l'ottavo anno, non una di meno, lancia una giornata di lotta e visibilità contro la violenza patriarcale attraverso la forma dello sciopero globale, produttivo e riproduttivo, con lo slogan «Se le nostre vite non valgono, noi scioperiamo». Scioperiamo dal lavoro, dentro e fuori casa, per evidenziare il nesso tra il lavoro produttivo e quello riproduttivo. La lotta alla violenza di genere è lotta per l'autonomia, per il salario minimo e per il reddito di autodeterminazione. È anche lotta per un welfare includente, aperto e garantito, senza il quale il lavoro di cura ricade sempre di più sulle donne, rendendole più esposte allo sfruttamento e alla violenza. Sappiamo quanto sia difficile scioperare per chi da troppo tempo ha visto crollare il proprio potere d'acquisto per via del caro vita e dei salari rimasti fermi e di contratti indecenti. Quest'anno però, dopo le grandi manifestazioni contro la violenza sulle donne e la violenza di genere e dopo l'ondata di indignazione per i femminicidi che hanno continuato a susseguirsi al ritmo di uno ogni 2 o 3 giorni, qualcosa è cambiato. Maschilismo e patriarcato sono diventate parole diffuse su cui donne e uomini hanno iniziato a interrogarsi anche al di fuori delle nostre cerchie. Più capillare è la reazione verso narrazioni tossiche e linguaggi sessisti, più consapevoli sono le giovani generazioni della violenza che a tutti i livelli permea le nostre vite, nell'ambito personale, delle relazioni, sul piano politico e globale nel pianeta. Quindi questo 8 marzo, con non una di meno in piazza, si vanno a trattare quegli argomenti che ormai interessano a tutti, ormai sono quelli che vediamo al telegiornale: i femminicidi, le violenze di genere, le violenze psicologiche, il carico mentale che la donna ha ancora oggi nel 2024. Sono veramente imbarazzata di dover parlare ancora di queste cose, ma purtroppo ce n'è bisogno tantissimo e questa cosa non si ferma, non si ferma e non abbiamo modo di fermarla se non tutte insieme, tutti insieme, uomini e donne che la pensino in questa direzione. Cyndi Lauper, un'altra di quelle donne che ci piacciono veramente tanto, qui ha dedicato. Le ragazze vogliono soltanto divertirsi, il titolo della canzone, ma non nel senso che intendono alcuni uomini trogloditi che ancora oggi pensano chissà quale divertimento per la donna, ma semplicemente perché anche noi vogliamo divertirci e non avere il carico mentale di tutto quello che ci succede intorno e non dovere fare sempre delle cose e non dover fare sempre delle cose, ma anche semplicemente divertirci. Scott, ben arrivata! Siamo giusto ai saluti finali di questa trasmissione. Però a questo punto dicelo anche tu, 8 marzo, festa della donna. Perché? Perché ancora nel 2024 dobbiamo festeggiarla? Perché secondo me è una giornata molto importante, che in pratica le donne se la sono meritata lottando in tutti questi anni per avere anche loro dei diritti, e perciò secondo me hanno diritto a questa festa, e giustamente. E giustamente, grazie Mascotte. Allora salutiamo e ci risentiamo la settimana prossima, sempre su Radio Città Fujiko, sempre alle 13, mercoledì, giusto? Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Buon 8 marzo a tutti. Ciao.